Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su Controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Oggi è domenica, il 25 maggio 2014 e questa è la 181esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Kiss me, down by the broken tree house, swing me, up on its hanging time, ring, ring, bring your flower hat, we'll take the trail marked on your father's map. Ricordiamo che la trasmissione Restiamo Animali è in onda da marzo 2012 per dare voce a chi non ha voce e per mettere anche un pensiero diverso in circolo. Un pensiero un po' meno antropocentrico, un po' più biocentrico, a disposizione di chi avrà la curiosità mentale e politica e la sensibilità spirituale per accoglierlo. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo Francesco Azzurri e per le selezioni musicali Lorenzo Ranfagni e Giona Vinti. Anche la scaletta di oggi prevede un bel tour de force. Partiamo dall'India, dove ragioneremo sulla condizione di alcuni gruppi di scimmie rhesus, le stesse sulle quali vengono fatti dolorosi esperimenti scientifici nella nostra parte di mondo, che invece, in quella parte di mondo, a giorni alterni, passano dalla condizione di divinità venerata a quella di monelle moleste, in quanto hanno imparato, senza che nessuno glielo insegnasse, alcune attività che pensavamo fossero un'esclusiva umana. La rubrica Resistiamo Animali vi svelerà la vicenda in ogni dettaglio. Torniamo a Firenze per gustare una ricetta primaverile e floreale della quale potremmo dire che coglie l'attimo, in quanto la sua materia prima è tra le più passeggere. Il nostro vegan chef Gabriele Palloni, infatti, ci insegnerà a friggere i fiori d'acacia. Molte le storie di attualità nella rubrica Animal House. Andiamo a Peschiera Borromeo, dove la nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, ha seguito per noi una staffetta podistica vegana. Valentina Reggioli ci darà conto di una manifestazione contro lo zoo di Pistoia che si è svolta alle porte dello zoo stesso una settimana fa. Per chiudere, la rubrica Tigri di carta, la rassegna stampa Altra Animalista e due brevi news. Resistiamo, animali! Storie di fughe e ribellioni. Freedom. Italia le cime sono protette e venerate. Sono rispettate e nutrite, ma soprattutto in India le scimmie sono tante e decisamente ben organizzate. Al punto tale che, racconta il New York Times, che ha intervistato il direttore dei servizi veterinari locale, secondo gli abitanti di Delhi sono diventate invadenti, perfino aggressive. Insomma, dicono, sono un problema. Perché entrano nelle loro case, fanno scorribande o perfino mettono in atto astuti trabocchetti nei quali i visitatori del tempio di Krishna si vedono sottrarre i loro occhiali tenuti poi in ostaggio in cambio di una generosa quantità di cibo. Una strategia di gruppo per rivendicare semplicemente i loro spazi, la libertà, cercare di riappropriarsi del loro territorio. A Delhi ognuno affronta la situazione alla propria maniera. C'è chi lascia fuori dalle case del cibo, poi magari lamentandosi, chi dà loro direttamente da mangiare nelle strade e vicino ai templi, nel tentativo di ingraziarsi il dio indù Hanuman, del quale, tra l'altro, è bene ricordarlo, sono considerate l'incarnazione vivente. Altri invece hanno preso come animale domestico proprio una scimmia, ma appartenente a una specie più grossa, di tipo langur, che, marcando il territorio, allontana le altre più comuni, di tipo rhesus. Qualcuno infine ha tentato di catturarle, ma niente da fare, le scimmie sono diventate sempre più abili e hanno imparato ad evitare le trappole. E poi, se per caso riescono a prenderle, scappano immediatamente dal santuario dove le hanno portate. Insomma, mai come in questo caso, vale il detto, l'unione fa la forza. Capacità di auto-organizzazione dei primati non umani o delle scimmie in generale sorprendono poco, relativamente poco, perché siamo abituati da sempre o da molto tempo a considerarle proprio come dei parenti stretti. Non si tratta di una condizione sperimentale creata ad hoc in un laboratorio, non è questo lo sfondo degli episodi, ma si tratta proprio dei luoghi, di luoghi in cui convivono, in cui vivono accanto umani e macachi. Quello che è meraviglia, che sembra costituisca uno scandalo, qui è proprio forse il fatto che inizialmente questa convivenza è stata accettata, anzi è stata incoraggiata. Per motivi religiosi infatti le scimmie non venivano scacciate, non potevano essere oggetto di violenze, venivano nutrite in alcuni giorni, il martedì e il sabato. E però i resoconti giornalistici sottolineano questo aspetto sempre, che qualcosa è andato storto, perché gli animali non sono stati lasciati nel loro ambiente naturale, qualsiasi cosa significhi questa espressione di ambiente naturale. Abbiamo usato troppo cercando una prossimità che è diventata una specie di domesticazione, una domesticazione rispettosa e pacifica, ma pur sempre una domesticazione. Quindi gli animali selvatici che perdono questo loro status. E questa convivenza poi diventa ingestibile nel momento in cui l'interlocutore, diciamo, cioè le scimmie, prende sul serio la convivenza. Cioè, quello che diventa uno scandalo è che questi animali non si limitano a ricevere le offerte nei giorni prestabiliti, ma vanno a prendersi il cibo direttamente dai turisti. Quindi chiedono, pretendono, rubano, addirittura scambiano cibo con degli oggetti, ricattano, cioè fanno dei gesti che hanno una natura economica, squisitamente umani. Quindi la prima minaccia, loro ci rivelano che non siamo in realtà gli unici a saper fare determinate azioni come rubare un paio di occhiali e restituirli solo dopo una ricompensa in cibo. E poi c'è un'altra minaccia, i macachi sfidano lo status che è stato loro assegnato da noi e rivelano una nostra vera e propria schizofrenia. I resoconti dicono che ci sono persone che li venerano, offrono loro il cibo in un determinato giorno, il giorno dopo si lamentano delle loro razzie. Ovviamente le scimmie non riescono a comprendere che in un giorno della settimana sono l'incarnazione di una divinità e devono essere nutrite così a piacimento, mentre il giorno dopo, se pretendono cibo, diventano una specie invadente, una specie pericolosa. Se ci pensiamo, non è chiaro se sia più intelligente chi non comprende questo doppio status o chi invece non solo lo comprende ma l'ha elaborato e l'ha addirittura interiorizzato, lo vede come una roba normalissima. Questa è una sfida delle categorie umane, quella di scimmia divinità e di scimmia invasore, diciamo, cui viene opposta una manifestazione di questi soggetti, la loro irriducibilità. Cioè le scimmie dicono proprio: io sono la stessa persona il lunedì, il martedì e il mercoledì, eccetera, mi nutro e vivo ogni giorno allo stesso modo. Poi alla fine però le categorie sono comunque decise da noi. Per esempio l'ente che protegge gli animali selvatici si rifiuta di intervenire perché questi animali non sono più selvatici. Un altro esempio interessante è che, per esempio, quando Barack Obama viene in visita a Delhi, le autorità mettono in campo una serie di misure di antiterrorismo, letteralmente, che servono a evitare che i gruppi di scimmie teppiste possano rovinare l'evento. E quindi cioè, proprio le unità antiterroristiche devono occuparsi al tempo stesso dei gruppi armati fondamentalisti e delle gang di scimmie. Quindi lo status cambia non solo in funzione di cicli temporali religiosi, diciamo, ma anche a seconda di occasioni, priorità umane. E in effetti è difficile non vedere l'analogia fra questa vicenda e tante vicende in cui ci sono dei governi di ogni cultura che ripuliscono le città dagli ospiti indesiderati in occasione di grandi eventi, olimpiadi, mondiali di calcio, eccetera. Per esempio cani randagi o le prostitute. Qui però il ruolo proprio di questi ospiti indesiderati forse è più attivo. Accanto a questo ovviamente c'è la gestione dello spazio, che è sempre lo spazio umano. Infatti il peccato originale per i giornalisti che scrivono di questa questione è considerato quello di aver dato accesso a uno spazio umano, averle fatte abituare a vivere nutrite proprio in uno spazio umano, di aver fatto disimparare le scimmie a procacciarsi il cibo e così via. E la soluzione è la deportazione, una deportazione dolce, probabilmente perché appunto sono protette dalla religione queste scimmie. Però questo non significa ovviamente che i macachi non staranno meglio altrove in una vera foresta, insomma, quando si saranno riabituati lontano da, appunto, dai problemi delle società umane. Però nessuno gli ha chiesto dove preferiscono stare. E in questa vicenda si sarebbe anche tentati di vedere un'analogia con le questioni tipiche dell'immigrazione umana, con tutte le emozioni contrastanti che suscitano nelle varie persone coinvolte. Quante volte per esempio si sente dire che i migranti si riversano in Occidente nella speranza di una vita fatta di condizioni materiali migliori di quelle dei paesi d'origine. Poi queste condizioni magari non sono così desiderabili, oppure rappresentano soltanto le briciole di un benessere che è riservato più che altro a chi ci è nato in Occidente. Quindi il disagio dei migranti per molti è soltanto delinquenza, una specie di ingratitudine addirittura. E così ai macachi viene fatta intravedere la possibilità di una vita di opulenza senza sforzi, ma poi di fatto non è così. Quindi loro pretendono di più e agli umani sembrano proprio degli ingrati. Quindi in qualche modo le loro pretese, ma anche la nostra reazione, indicano proprio che siamo disposti a concedere soltanto delle briciole di benessere, che siamo disposti a concederle sempre a patto che lo straniero si tenga a debita distanza. Clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry, spread a little happiness as you go by, please try. What's the use of worrying and feeling blue when days are long? Keep on smiling through, spread a little happiness till dreams come true. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Don't you realize you find next Monday or next Tuesday your golden shoes day? Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. I've got a creed. Quando si parla di fiori fritti, subito si pensa a quelli di zucca, ma non tutti sanno che anche i fiori di acacia sono ottimi. Anche se siamo un po' in extremis, poiché i fiori delle acacie ormai non sono così rigogliosi come le settimane passate, facendo un bel giro nel bosco, magari sui rami un po' più alti, si possono ancora trovare dei freschi fiorellini bianchi. Oggi vi propongo una semplice ma gustosa variante, realizzando delle frittelle salate, frittelle di fiori di acacia. Le dosi per 4 persone sono 100 g di fiori di acacia, 100 g di farina 00, 50 g di farina di grano saraceno, mezzo bicchiere di pasta madre, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, poca scorza di arancia grattugiata, sale e olio per friggere. Pulite i fiori dal loro rametto e metteteli in un recipiente con acqua fredda. A parte preparate una pastella con il lievito di pasta madre, i due tipi di farina, l'olio, la scorza di arancio e il sale. Amalgamate con acqua fredda fino ad ottenere un impasto cremoso non troppo sodo. Scolate i fiori dall'acqua e uniteli alla pastella. Friggete in olio ben caldo, aiutandovi con due cucchiai per formare delle frittelle. Fate dorare bene da tutte le parti, scolate dall'olio e servitele calde con un pizzico di sale in superficie. Teenage Mary, said Uncle Dave, I sold my soul, must be saved. Gonna take a walk. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Run, run, run, run, run, Jim's a death of you. Hey, what you do? Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. Cominciamo il nostro viaggio attraverso le notizie delle ultime settimane nella nostra rubrica di attualità. Iniziamo da Peschiera Borromeo, dove la nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, con un po' di affanno si è messa a inseguire degli atleti vegani impegnati in una staffetta podistica. Sentiamo come uomini e donne così gracili, che si nutrono di sole verdure, riescono ad ottenere buoni piazzamenti in una delle più estenuanti gare sportive. Può un atleta di livello mondiale assumere le proteine necessarie per essere competitivo a quei livelli attraverso una dieta vegetariana? Io ho scoperto di sì, anzi, l'anno migliore della mia carriera è stato quello in cui ho cominciato a essere vegano. A dichiararlo è niente po' di meno che Carl Lewis, l'olimpionico del XX secolo, vegano dal 1991, anno in cui ha stabilito il record del mondo nei 100 metri e vinto 3 ori mondiali. E che è in ottima compagnia, con lui ci sono Rudy Carty, record del mondo, 151.000 piegamenti addominali in 48 ore, Kenny Cloes, che ha attraversato a nuoto il tratto Aruba, Venezuela, unica persona al mondo, Venus e Serena Williams, le due regine del tennis internazionale, Brendan Brazier, famoso per le sue capacità di resistenza e per le imprese sportive nel triathlon, e poi Fiona Hawkes, campionessa internazionale nella maratona, diventata vegana durante l'adolescenza, Patrick Baboumian, un campione di bodybuilding che si è aggiudicato il riconoscimento di atleta vegan nell'anno del 2013, e molti altri ancora. Non è un caso, infatti, che molti medici sportivi siano concordi nell'affermare che la resa atletica dei vegetariani, specie dei vegani, è molto maggiore, perché sfruttano in modo più efficiente l'energia incamerata attraverso il cibo. Un cibo, è bene ricordarlo, che non è costato la vita e la sofferenza a nessun animale. Ed è proprio questo che hanno voluto dimostrare i partecipanti della staffetta 24 per un'ora vegan, organizzata sabato 10 e domenica 11 maggio a Peschiera Borromeo, vicino a Milano. Una staffetta podistica in pieno stile di 24 frazioni da un'ora con 39 squadre in gara. Tra queste anche quella dei Vegan Runners, atleti in erba o già consolidati, che si sono cimentati in una corsa ininterrotta dalle 11 del sabato fino alla stessa ora del giorno seguente, notte compresa. L'idea è venuta a Leonardo Costa, vegano, maratoneta, che per l'occasione ha chiamato a raccolta vegani da ogni parte d'Italia e perfino dalla Svizzera, per correre insieme e che ha allestito un gazebo con tanto di manifesti, volantini e cibo cruelty free. Ecco cosa ha raccontato proprio all'inizio della gara, poco dopo le 11 di sabato mattina. L'idea mi è venuta perché partecipo a questa manifestazione che è una staffetta lunga 24 ore, partita alle 11 di sabato oggi e finirà domenica domani alle 11. Mi è venuta in mente l'idea perché è vent'anni circa che partecipo a questo evento con altre squadre. L'occasione mi sembrava anche giusta perché innanzitutto c'è una buona visibilità, perché sono tante le squadre, una quarantina scarse, più di 1000 partecipanti, e sia perché comunque permette di socializzare, c'è il gazebo, il punto di ritrovo della squadra con i tavoli, faremo da mangiare. Siamo riusciti a trovare uno sponsor che ha finanziato la stampa delle magliette, tutti i partecipanti avranno una maglietta di squadra, davanti il logo e dietro il motto. La prima atleta, Romina, ha tenuto alto da subito l'onore della squadra, per poi passare il testimone a Marina e Carlo, altri due podisti. Romina, ciao, tu sei stata la prima a correre per questa squadra di Vegan Runner, bravissima, ti ho visto andare velocissima, com'è andata? Ma penso abbastanza bene, più o meno ho fatto i miei tempi, c'era una musica latinoamericana di sottofondo, però stimolavo al contrario. Abbiamo retto. E, senti, rispetto agli altri come hai visto? Ma le ragazze, c'era qualcuna che correva molto veloce, c'era qualche atleta che andava che mi ha doppiato, però penso, insomma, di essere stata nel mio tempo, e mi è sembrato di sì. Tu sei vegana da quanto? E dunque da circa 10 anni. Ti alleni normalmente? Sì, io mi alleno circa 3-4 volte a settimana, però ho iniziato a fare gare da, in realtà da pochissimo, e io ho fatto la mia ora, ho visto Marina, sì, ho dato una, ci siamo toccate la mano e lei poi è partita. È una sorta di staffetta, sì, la classica staffetta, non c'è il testimone, ci diamo il chip prima e c'è la, diciamo, devi toccarti la mano, ecco. Tu sei un inserimento un po' dell'ultimo minuto. Allora, alle 6:40 di stamattina il Leo mi ha mandato un messaggio che dovevo chiudere un buco. Mi sono riaddormentata e ho avuto un incubo, che ero in Toscana, e non trovavo il telefono per avvisarlo che non sarei venuta. Per cui questo è stato il mio inizio. Invece è andata bene, è andata bene. Settimi su? Su, non so quanti siano le squadre, una quarantina, sì. Ah, però, non male. Settimi su 40. All'inizio ho scambiato quattro parole, ho trovato anche dei discatesi. Mi dice il tipo di scatese, ma non corri con noi? Dico no, è ovvio, corro con i vegani, no? Perché ho detto il mio paese, ho detto però io non posso correre con voi, devo correre con i vegani. E come l'ha presa? Vabbè, insomma, sai, eravamo tutti in tensione per la partenza. A volte prima delle gare faccio anche soltanto un centrifugato di carote e spinaci ed è sufficiente per sostenere un impegno di circa un'ora, quindi non è l'ultimo pasto che determina poi la performance, ma è come si mangia per tutta, certo, la settimana. Certo, certo. Tu quindi fai le gare abitualmente? Sì, io sono un agonista, corro nel duathlon e sono ben posizionato a livello del rank nazionale, quindi vuol dire che questa alimentazione sta andando bene. Ciao Fabio, sei stato il penultimo, com'è andata? Abbastanza bene, parte un po' di male la caviglia e il caldo, ma è andata abbastanza bene. Sono più che altro un ciclista, quindi non un podista. Un ciclista vegano che fa quanti chilometri al giorno? Uso la bici come mezzo di trasporto, quindi vado al lavoro in bicicletta, faccio 60 km al giorno. Sono trascorse quasi 24 ore, la notte è stata intensa, ma il risultato sembra buono. Ora tocca agli ultimi partecipanti, Simone, atleta di duathlon, Fabio e Luana, che hanno concluso la gara con allegria e sportività. Da quanto tempo sei vegano? Sono vegano da circa 10 anni. Hai notato qualche cambiamento da quando sei diventato vegano rispetto alla tua attività fisica, appunto, per esempio andare in bicicletta o altro sport che fai? Sicuramente maggiore resistenza, sì, sulla distanza, molto di più rispetto a prima. Sì. L'importante è partecipare. Devo dire, non ho superato nessuno. Però è bello essere qui per lo sport, per il messaggio, per la pubblicità. Cioè, chi mi ha fatto fotografie, chi mi ha preso per i fondelli. Però è bello anche questo, dai. Mi piace lo spirito, mi piace lo sport. Ma ne faresti altre? Ne farei altre, sì, dai. Sebbene l'ultimo giro, cioè, mi sono detta, ma chi me l'ha fatto fare? Eccoci al traguardo, chiediamo a Leo un bilancio. Dovremmo essere nella prima metà della classifica, quindi positivo. Siamo soddisfatti? Sì, pienamente. I Vega Runners sono 16esimi su 39 squadre. La gara è finita ed è finita decisamente bene. E anche se non era competitiva, vabbè, che dire, go vegan! Roberta Marino, inviata a Peschiera Borromeo per Restiamo Animali. Seconda tappa. tappa del nostro viaggio nell'attualità. Stavolta tocca a Valentina Reggioli, la nostra superattivista, la quale domenica scorsa ha manifestato davanti ai cancelli dello zoo di Pistoia, che è in sé una inaccessibile gabbia contenente altre gabbie. Valentina ci racconterà i fatti, ma soprattutto ci farà capire qual è lo stato d'animo e la frustrazione di chi farebbe qualsiasi cosa per aiutare i poveri prigionieri, ma gli viene impedito. L'ultima volta e l'unica che sono stata allo zoo di Pistoia avevo circa 4 anni e i miei genitori probabilmente mi portarono lì pensando di farmi cosa gradita. Era una bambina abbastanza particolare, una bambina che non si addormentava leggendo Biancaneve e Cenerentola, bensì facendosi leggere dalla mamma l'enciclopedia degli animali. Di quell'occasione invece ho soltanto il disagio del ricordo di un animale maestoso come l'orso bianco crogiolarsi in 2 dita di acqua putrida mentre i bambini che mi stavano vicino sputavano dentro la vasca. Ovviamente non sono più tornata allo zoo di Pistoia e nessun altro zoo, anche se credo che quello sia stato uno dei tanti semini che mi hanno portato fino a qui. Domenica scorsa sono tornata in occasione della manifestazione proprio contro lo zoo e quello che ho visto non mi è piaciuto. Mi ero convinta che ormai lo zoo di Pistoia fosse un piccolo centro in cui non arrivavano più di 1-2 persone la settimana. In realtà, in una qualsiasi domenica primaverile, lo zoo è stato assediato da centinaia di persone. Sono arrivate addirittura pullman colmi e strapieni di genitori con bambini. Arrivavano macchine di genitori con bambini, nonni con bambini, giovani sui 20 anni che non avevano di meglio da fare che andare a farsi la giratina all'interno dello zoo. Il parcheggio è veramente enorme e vi assicuro che era stracolmo di macchine e non erano soltanto quelle degli animalisti che si riconoscono bene dagli adesivi. Il personale del parco ha cercato in tutti i modi di ostacolare la nostra manifestazione e di ostacolare i tentativi di dare i volantini agli utenti. Questo dimostra che ovviamente sanno bene anche loro che il loro lavoro non è del tutto pulito. Anzi, hanno tenuto a scusarsi più volte con il pubblico per il disagio da noi creato e avrei tanto voluto dire loro, se solo non mi si fosse strozzata la vena, che il disagio lo creano loro, costruendo un mondo basato sull'avidità e sul denaro. Un mondo in cui gli animali vengono sfruttati soltanto per arricchirsi e per gonfiarsi le tasche. I manifestanti erano agguerritissimi. Quando siamo arrivati con la macchina ci hanno accolto con dei cartelloni e non riconoscendoci dal finestrino hanno prima cercato di dissuaderci dall'entrare all'interno dello zoo. Poi hanno cominciato a dirci di vergognarci perché entravamo e decidevamo di sovvenzionare uno spettacolo così crudele. Soltanto quando siamo scesi dalla macchina e ci hanno riconosciuto hanno capito che non eravamo degli spettatori ma stavamo per andare da loro. È stato molto soddisfacente che un inserviente dello zoo ci indicasse l'ingresso dello zoo e io molto fieramente ho detto: No, noi stiamo con loro, noi stiamo con i manifestanti. Il personale dello zoo ha cercato di metterci bastoni fra le ruote in tutti i modi possibili, spingendoci sempre più verso la strada nel tentativo probabilmente di farci arruotare dalle macchine che arrivavano, tanto che alcuni della polizia a un certo punto si sono messi fra noi e quelli dello zoo, spiegando che l'ordine pubblico dovevano mantenerlo loro e non certo i padroni dello zoo. Sono riuscita a raccogliere alcune testimonianze di persone che stavano entrando dentro il giardino zoologico. Purtroppo poche perché poi si sono accorti della mia presenza e mi hanno gentilmente scacciata dal suolo privato. Questo è quello che sono riuscita a raccogliere. Allora, voi state per entrare dentro lo zoo, siete grandi. Come mai volete entrare? Noi piacciono gli animali, era per passare una giornata un po' diversa, quindi andiamo a vedere lo zoo siccome non ci siamo mai stati. E secondo voi gli animali rinchiusi in una gabbia stanno bene? Effettivamente no, però anche quindi è vero che purtroppo bisogna vedere i punti di vista. Tanto loro lo fanno anche a livello lavorativo, a loro interesse. È un'attrattiva per le persone, però anche è vero che in libertà sono nel loro ambiente naturale. Che impressione vi hanno fatto i manifestanti giù al cancello? A me nulla, lui incazzatura e basta, mi dispiace dirlo. Secondo voi come dovremmo manifestare per dire il nostro no a un posto come questo? Non ti saprei rispondere, ti dico la verità. Voi state per entrare dentro lo zoo, ci siete già state? Sì. Cosa vi è piaciuto dello zoo per farvi ritornare? Tutto, è stato tutto bello. Tutto, sì. Si vede che stanno facendo altre cose per migliorarlo, le tigri sono in condizioni belle, i reparti sono grandi. Che vuol dire che le tigri sono in condizioni belle? Nel senso che sono messi bene assolutamente. Sono messi meglio che nel loro ambiente naturale? Sì. Sei sicura? Sì, al 100%. Quest'ultima ragazza intervistata poi l'abbiamo trovata nel gruppetto di piantoni che piano piano ci hanno spinto fuori dallo zoo nel simpatico tentativo di farci investire dalle macchine in transito. Ma devo dire la verità, sono stata contenta di essere stata buttata figurativamente fuori a calci dallo zoo, perché davanti a queste certezze prive di dubbio, a me viene solo da piangere. Io che non sono mai sicura di niente, vedere una ragazzina di 20 anni sicura che un animale maestoso come una tigre, così come un elefante, così come un orso, così come un lupo, stia bene in una gabbia dorata che per quanto grande sia è sempre una gabbia, a me viene solo da piangere. Tigri di carta. Rassegna stampa altro animalista. Settimana i grandi giornali hanno dimostrato di avere un'attenzione sempre viva quando si parla di questioni teoriche che vanno a fondo del rapporto fra gli umani e gli altri animali, anche se spesso il linguaggio non è questo e se la curiosità più che il desiderio di andare alle radici delle strutture di dominio è la ragione dell'attenzione. Cominciamo con l'Unità, che martedì 20 maggio ha pubblicato un bell'articolo di Enrico Alleva, noto etologo e relatore ieri a Pistoia al Festival Dialoghi sull'Uomo in materia di competizione e cooperazione nel regno animale. In questo articolo, intitolato Le meduse, madri della condivisione, gli animali hanno sottili e umanoidi rapporti, anche fra specie diverse, Enrico Alleva si interroga su un punto chiave, cioè si domanda, leggiamo un passaggio del suo articolo, quando possiamo affermare che un essere animale acquisisce quel livello pur minimo di individualità per poter essere considerato un partner sociale per un altro essere della sua stessa specie. Su questo, dice Alleva, gli esperti di etologia, ma forse anche di neurofisiologia, non sono unanimi. In effetti è un problema con profondi risvolti di filosofia naturale e di epistemologia. Alleva comunque arriva a una conclusione e vede nelle meduse questo animale di passaggio in qualche modo. Le meduse sono un essere complesso, una composita colonia di organismi associati, scrive, e a loro volta confederatesi per dar vita a un singolo elemento in grado di rapportarsi con l'ambiente, incluse le altre meduse della sua stessa specie. Insomma, sarebbe fra i scelenterati da ricercare il grande salto evolutivo per la socialità, almeno da un punto di vista etologico. In un altro passaggio Alleva esalta formicai e termitai, che definisce magnifici insiemi di centinaia di migliaia di individui armoniosamente fra loro coordinati, e che hanno appunto ispirato anche politici e statisti alla ricerca di regole sociali semplificate e apparentemente naturali. Al fondo di questo articolo e anche della visione di Alleva c'è questa considerazione che leggiamo ancora dal suo articolo pubblicato sull'Unità del 20 maggio. È confondente l'idea che questo lungo incedere della storia della vita sulla Terra abbia condotto a un essere super perfetto e super dotato, quell'arrogante unica specie che si è autodefinita Homo sapiens sapiens. Si tratta appunto di un'autoreferenziale visione antropocentrica che proprio nel mio intervento nell'ambito del Festival Dialoghi sull'Uomo sarà contestata. Di altri animali e di intelligenza si ragiona anche in un articolo di un altro famoso etologo, Franz De Waal, che sull'inserto La lettura del Corriere della Sera di qualche settimana fa, il 4 maggio, parla dei polpi. Il titolo dell'articolo è Il polpo ragiona con i tentacoli. È un errore misurare l'intelligenza degli animali adottando test fatti su misura per l'uomo. Esperimenti mirati dimostrano che hanno enormi capacità cognitive, diverse dalle nostre. De Waal si concentra, dicevamo, sui polpi e dice «Forse dovremmo anche rivedere la fisiologia dell'intelligenza. Prendiamo i polpi. In cattività riconoscono chi se ne prende cura e imparano ad aprire flaconi di pillole con tappi a prova di bambino». Il loro cervello è senza dubbio il più grosso fra quelli degli invertebrati, ma la spiegazione delle loro capacità potrebbe risiedere altrove. Sembra che questi animali pensino letteralmente usando parti esterne al cervello. I polpi hanno centinaia di ventose, ciascuna delle quali è dotata di un ganglio con migliaia di neuroni. Questi mini cervelli sono collegati fra loro, fungendo da sistema nervoso ad ampia distribuzione. Ecco perché il tentacolo reciso di un polpo può strisciare da sé e persino raccogliere del cibo. Allo stesso modo, quando il polpo cambia il colore della pelle per autodifesa, mimetizzandosi in modo da sembrare un serpente marino velenoso, la decisione può non essere stata scatenata dal suo sistema centrale, ma dalla pelle stessa. E in questo passaggio si vede quanto anche la nostra visione degli altri animali sia tendenzialmente limitata. Arriviamo a due argomenti tipici dell'interessamento dei media rispetto alla questione animale. Il Corriere della Sera di domenica 18 maggio titola così una pagina corredata di grafico e illustrazione: il più grande dinosauro del mondo e il fascino del pianeta prima dell'uomo. I resti di un erbivoro lungo 40 metri, alto 20 e pesante 77 tonnellate. Un contadino scopre in Argentina un cimitero di animali giganti, come due tir con il rimorchio, uno dietro l'altro. E l'immagine mostra il paleontologo spagnolo José Ignacio Canudo disteso a fianco di un gigantesco osso del dinosauro argentino. Questo osso sembra un femore o qualcosa del genere. È più lungo del paleontologo stesso. La paleontologia, la Jurassic Park in qualche modo restituita dal cinema, definisce uno dei fuochi dell'attenzione dei media per gli animali. Una curiosità, una esoticità, più che un effettivo desiderio di approfondimento. Altro argomento tipico, la questione di cani, gatti e altri animali di casa. Sempre dal Corriere della Sera di domenica 18 maggio, l'articolo è «Un popolo di poeti, santi e animali domestici. Italia terza in Europa per convivenza con cani, gatti, uccelli e altre bestie». Ma i numeri non dicono tutto, perché ci sono i cacciatori che mettono in gabbia i richiami per le prede. In effetti, la notizia che spicca in questo grande grafico che correda il breve articolo di Paolo D'Amico è il fatto che in Italia si stima che ci siano quasi 13 milioni di uccelli domestici, un terzo del totale europeo, una cifra esorbitante alla quale purtroppo contribuiscono i troppi cacciatori che ancora infestano questo paese. Per chiudere, una bella notizia che prendiamo dalle cronache fiorentine del Corriere della Sera di martedì 20 maggio, il titolo è questo: «Il cane che viaggiò per 3 anni, la storia di Rudy, sparito in Sicilia e ritrovato a Castello, grazie al microchip. Come sarà arrivato da Trapani a Firenze non ce lo potrà raccontare Rudy», scrive l'articolista, «ma che aspettasse da 3 anni di rincontrare la sua padrona, il pechinese rosso ritrovato nella zona di Castello lo ha spiegato in modo chiarissimo ieri mattina. Appena visto Silvana Grammatico entrare al canile sanitario, ci ha pensato pochi millesimi di secondo, le è corso incontro, le è saltato addosso e lei si è commossa». Come non capire la signora Grammatico di fronte al suo cagnolino che ricompare a 3 anni di distanza. Sabato 31 maggio, domenica 1 giugno e lunedì 2 giugno dalle 10 alle 20 si svolgerà Lucca Vegan Friends. Il centro di Lucca diventerà per 3 giorni la capitale del mondo vegan e cruelty free. Organizzato dall'associazione Eco Eventi, che da anni affronta temi legati all'ecosostenibilità e al rispetto per ogni forma di vita, sono state coinvolte molte realtà che si occupano della difesa e della salvaguardia degli animali, tra cui iCare, LAV, OIPA, Essere Animali, che da anni sono attivi per i diritti delle specie animali. E poi grande sostegno c'è anche stato da parte del progetto Vivere Vegan, che da anni si occupa di diffondere il veganismo in tutta Italia. I ristoranti del centro storico di Lucca offriranno menù vegani durante i 3 giorni della manifestazione. Naturalmente ricordiamo il Nandas Vegan Burger and Cakes, un locale dove siamo andati dopo l'apertura per raccogliere le voci delle persone coraggiose che lo hanno aperto. Quindi veganismo, salute, antispecismo, alimentazione sana, ecolaboratori e conferenze dal 31 maggio al 2 giugno 2014 a Lucca Vegan Friends, in Piazza Napoleone a Lucca. J Giovedì 29 maggio apre a Firenze alle ore 19 il ristorante Bio Veggie, Gluten Free and Vegan, 100% biologico, 100% senza glutine, 100% vegetale. La squadra è la stessa della paninoteca Panino Vegano, aperto in via Bufalini a Firenze. Puntano in alto, oltre alla paninoteca aprono adesso un ristorante che sarà aperto dal martedì alla domenica sia a pranzo che a cena. Lo ricordo ancora, giovedì 29 maggio dalle ore 19 l'appuntamento per la Firenze Cruelty Free è in via Erbosa 12 Rosso. C'è anche un sito internet www.bioveggi.it. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog che non è più restiamoanimali.wordpress.com ma è restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.